Ecco, sono contento di essere qui con voi a meditare, no? A pochi giorni dalla Pasqua, dalla Settimana Santa, dalla Pasqua, per cercare di, insieme con voi, anch'io prepararmi un po' a questi giorni santi. Ho scelto come tema da meditare con voi, oggi siamo appunto alla vigilia della quinta domenica di Quaresima, è una domenica nella quale, soprattutto nell'anno A, ma a volte si può anche scegliere di leggere anche negli altri anni, domani forse vi troverete con il Vangelo dell'anno B, però è la domenica che è dedicata tradizionalmente alla risurrezione di Lazzaro e anche i catecumeni che si avvicinano a ricevere adulti, no? Si avvicinano a ricevere il battesimo nella notte di Pasqua, proprio in questa domenica, riflettendo sulla risurrezione di Lazzaro, fanno un altro passo nel loro cammino di avvicinamento al battesimo. E io, ecco, mi soffermerei sul Vangelo di Lazzaro, però con voi quasi più sul rapporto che Gesù ha con le due sorelle di Lazzaro, no? con Marta e con Maria, perché penso che voi possiate, ecco, anch'io, coglierne degli aiuti, degli insegnamenti. Possiamo cercare di capire come possiamo anche noi rapportarci con lui anche in vista della sua passione, no? E queste due sorelle che abitano a Betania, ecco, forse a me piace, per capire meglio quello che accade in questo Vangelo che di Giovanni, quando Lazzaro è malato, le due sorelle lo mandano a chiamare, per certi aspetti ci può aiutare a ricordare quell'altro episodio, forse in tempi più tranquilli, all'inizio del ministero di Gesù, che racconta San Luca, quell'altro famoso episodio, no, che accade a Betania, quando Marta lo accoglie nella sua casa. E però c'è un po' un piccolo, diciamo così, una piccola incomprensione, no, tra le due sorelle, soprattutto tra Marta e Maria. E secondo me questo episodio ci aiuta a capire meglio il clima di quell'altro che racconta San Giovanni, quando il fratello Lazzaro si ammala e poi muore. Vi ricordate, no, quel breve Vangelo di San Luca? Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio una donna di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore gli rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Allora questo episodio per tanti secoli nella Chiesa è stato letto come una sorta di contrapposizione tra la vita attiva e la vita contemplativa, ma oggigiorno giustamente è superata questa visione. E lo si può leggere da tanti punti di vista, no? Forse, ecco, io lo leggerei dal punto di vista del rapporto di queste due sorelle con Gesù, che è quello che a noi poi interessa, no? Ci interessa nell'ambito della conversione quaresimale, di ritrovare un rapporto con Gesù bello, fluido, insomma, di confidenza, possiamo dire come quello di Maria, seduta ai piedi di Gesù che ascolta la sua parola, però per certi aspetti anche come quello di Marta che spiega a Gesù, che si confida con Gesù magari in malo modo, ma però ne ottiene una risposta molto bella e molto importante per lei. Quindi vogliamo imparare da queste due sorelle sia l'ascolto di Gesù, sia metterci ai suoi piedi ad ascoltare. A volte la preghiera, come state facendo anche adesso, è stare sedute alla sua presenza, qui abbiamo anche l'Eucaristia, e ad ascoltarlo. E vi ricordate che il curato d'Ars rimase molto colpito quando vedeva in chiesa un contadino che si entrava, si fermava e si sedeva, e cioè quasi, come dire, era ammirato dalla sua preghiera. E allora un giorno gli chiese: ma tu cosa dici al Signore, no? E quel contadino disse: no, io lo guardo e lui mi guarda, no? Semplicemente era uno stare, no? E davanti al Signore. Questo episodio, che anche è raccontato nel Catechismo della Chiesa Cattolica, mi fa ricordare quell'altro episodio nella vita del giovane Don José María Escrivá, forse anche, ecco, sì, proprio nei primi anni della sua vita sacerdotale, quando confessava in una piccola chiesa di Madrid e sentiva un gran frastuono di bottiglie, di latte, di metallo. Al mattino, allora, un giorno esce dal confessionale per vedere che succede, sempre alla stessa ora, ed era il lattaio. Allora portavano in giro queste bottiglie di latte, bottiglie di vetro, un contenitore di metallo, è una cosa antica che ormai abbiamo dimenticato. E anche lui gli chiese: ma tu cosa dici al Signore quando entri al mattino? E lui dice: no, io gli dico solo: ecco Gesù, e qui c'è Giovanni il lattaio, no? E questa preghiera così semplice, così, e colpì il cuore anche di questo sacerdote che adesso è santo, e lo portò a pregare, a dire al Signore: guarda che qui c'è uno che non sa pregare, parlare con te come con la semplicità di Giovanni il lattaio. Noi vogliamo, Gesù, imparare da Maria a stare a contemplarti, a pendere dalle tue labbra, nella nostra preghiera anche ad ascoltarti, anche a stare in silenzio, come a volte stanno in silenzio le persone che si vogliono bene. E anche vogliamo imparare da Marta, che ti dice con sincerità il suo problema. Ecco, c'è questa confidenza, questa schiettezza che anche tu ami, tanto che in questo Vangelo noi annotiamo che Gesù dedica a Marta, quando gli ha fatto questo sfogo, quel doppio nome, no? Ma quel ripetere il suo nome: Marta, Marta, che nel Vangelo, se non erro, è solo per lei, è solo per Pietro, Simone, Simone, e per Gerusalemme, quando piange sulla città: Gerusalemme, Gerusalemme. Significa che Gesù ama molto Marta e la ama con i suoi difetti, no? A proposito di San José María, lui quando parlava con le persone sposate, con il marito, con la moglie, soleva appunto a volte chiedere: ami tuo marito, ami tua moglie? Sì, ma la ami anche con i suoi difetti, perché sennò vorrebbe dire che non la ami totalmente, no? E allora Gesù, che ci ama totalmente, ci ama con i nostri difetti, anche perché i nostri difetti sono, come accade a Marta in questo caso, l'occasione per lui di incontrarci. Se noi fossimo perfetti, non incontreremmo Gesù, non avremmo bisogno di Lui, no? Per questo Gesù ha detto: io sono venuto a chiamare i peccatori, non i giusti. È molto bello che dica questo, quando, questo lo dice quando ha chiamato Matteo al banco degli esattori, erano considerati peccatori, no? Gli esattori e i pubblicani, no? E poi fa una grande festa e lo criticano, no? Mangia con i pubblicani e i peccatori, e lui dice: sono venuto a chiamare i peccatori, non i giusti. Possiamo aggiungere noi, forse anche perché di giusti non ce ne sono, no? Quando il giovane ricco, cosiddetto, chiamato così nella tradizione, si avvicina a lui: maestro buono, che devo fare per ottenere la vita eterna? E Gesù gli dice: ma perché mi chiami buono? Solo Dio è buono, eh? Solo Dio è buono. Non ci sono giusti in senso completo, no? Siamo giustificati, cioè la grazia del Signore ci perdona, ci santifica, ci identifica con Lui, ci mette dentro la vita di Cristo, ci mette dentro la sua passione e morte che noi vivremo giovedì sera, sabato sera e venerdì pomeriggio, insomma, santo, e sabato con il sepolcro, e poi ci mette dentro la sua risurrezione. Il battesimo che noi abbiamo ricevuto è proprio un entrare dentro alla morte e alla risurrezione di Cristo, no? Anticamente il battesimo degli adulti veniva fatto in battisteri, che si possono trovare ancora in giro nelle chiese antiche, no? Che erano piccole piscine, anche molto artisticamente istoriate, no? Molto belle. E mi viene in mente, per esempio, San Giovanni in Fonte, che c'è a Verona, no? Una piscina ottagonale, ecco, una fonte, ecco, un luogo dove c'era acqua, e il battezzando, il catecumeno si immergeva totalmente e riusciva 3 volte, no? Veniva battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma a significare che questo entrare dentro nell'acqua era morire all'uomo vecchio, alla vita del peccato, e risorgere con Cristo alla vita nuova. Questo battesimo che noi abbiamo ricevuto ci ha inseriti in Cristo e nella sua passione e morte e nella sua risurrezione. E quindi Gesù ci ama come ama Marta, Marta, Marta, con i nostri difetti, no? E ci aiuta evidentemente ad affrontarli, a lottare per superarli, no? E così forse Gesù, curando, perché dice a Marta: tu ti affanni, ti agiti per molte cose, e Marta era distolta per molti servizi, insomma. In questo Vangelo c'è una parola greca che dice: è come in tumulto, no? Marta è in tumulto, è come quando ci sono così le manifestazioni pubbliche di rivoluzione, no? Cioè le cose la prendono così tanto. Noi abbiamo l'esperienza, no? Che a volte, chi più chi meno, in questo atteggiamento diverso di Marta e di Maria c'è anche l'aspetto del carattere che è creato da Dio. È bello che siamo diversi, no? È bello che ci sia Marta, è bello che ci sia Maria. Devono riuscire ad andare d'accordo per creare una vita di famiglia armonica. E forse per andare d'accordo ciascuna delle due deve imparare ad amare i difetti dell'altra, come li ama Gesù. Cioè Gesù quando ama Maria ama il suo stare ai suoi piedi, il suo ascolto così attento, ma ama anche, se volete, quel po' di, possiamo dirlo forse, di pigrizia, di indolenza, no? Che poi si ritrova anche nel Vangelo di Giovanni, quando lei è predilige stare più seduta in casa, non, e così Di Marta ama la sua schiettezza, il fatto che espliciti a lui, non si tenga per sé il problema, glielo presenti, perché così lui la può aiutare. E in fondo ama anche quel suo agitarsi, quel suo attivismo, pur cercando di aiutarla a superarlo. Noi possiamo sentirci così davanti a Gesù. Possiamo pregare come Maria, possiamo pregare come Marta. Possiamo chiedergli di imparare ad amare i nostri familiari, per esempio, i nostri colleghi, anche inglobando nell'amore il difetto che a volte ci urta, ci dà fastidio. A Marta probabilmente dà fastidio quel difetto di Maria, quel non trovarla, quel non farsi carico dei problemi della casa, anche se Gesù la corregge, perché in quel modo il suo desiderio di preparare in modo adeguato un pranzo per Gesù e i suoi discepoli, alla fine per servire Gesù in realtà lo critica. Non ti rendi conto? Quindi l'intenzione del suo cuore in fondo si è rovesciata, no? Lei vuole servire Gesù, poi alla fine sta servendo il suo orgoglio di fare bella figura, eh? Non sta accettando che le difficoltà della vita la portino a fare un'opera non perfetta. E invece Gesù dice: quello che mi interessa sei tu, è il tuo amore, non tanto le cose che tu preparerai, anche se pure c'è bisogno, e spesso anche l'amore si manifesta in questi gesti, in queste realtà, no? Si manifesta infatti. Forse Gesù, senza dirlo, corregge in Marta anche un pizzico di inconsapevole invidia di Maria, no? È come a volte questo capita anche a noi, no? C'è un'invidia nascosta e gli dà fastidio forse che Gesù dedichi tutto questo tempo a sua sorella e non a lei. Però non lo sa dire a se stessa. E Gesù cerca di correggerla, di aiutarla, come a dirle che così come lui c'è tutto per Maria, lui c'è anche tutto per Marta, no? Maria ha scelto la parte migliore, sceglila anche tu, Marta, che io sarò con te per sempre. Il mio dedicare, Gesù lo può dire assolutamente, il mio dedicarmi a Maria non è in contrasto, il mio amore per Maria non è in contrasto con il mio amore per te. In effetti possiamo pensare che questa azione di Gesù, questa azione di Dio, a volte mi immagino che anche con Maria in quel dialogo forse Gesù le ha dato qualche consiglio per riuscire ad andare d'accordo con Marta, perché magari si sentiva un po' trascurata da Marta o non compresa nel suo modo di essere e un po' accusata. E penso che questa azione di Gesù, se vediamo poi quello che succede e che narra il Vangelo di Giovanni, è stata molto efficace. Alla fine queste due sorelle che si rapportano con Gesù in un modo molto personale, ma che non le unisce, in realtà questo incontro con Gesù, questo dialogo avvenuto a Betania, riesce a unirle, che è quello che deve succedere con l'amore di Gesù, che ci deve rendere più fratelli, no? Cioè l'amore di Gesù ci porta ad amarci tra di noi. Quando è autentico, ci porta ad amarci tra di noi. Non è pensabile un amore per Dio, un amore per Gesù che sia assolutamente solo per noi e che non abbia un riflesso nel miglioramento del rapporto con i nostri fratelli nella fede, con i nostri cari, con i nostri familiari. La famiglia, dice il Papa in quel documento meraviglioso che è Amoris Laetitia, pensate che anche solo il titolo, no? La gioia dell'amore, cioè per la prima volta c'è un documento intero del Papa, un'esortazione apostolica post-sinodale, che ha come obiettivo, come cuore, la gioia dell'amore, no? In famiglia. Cioè l'amore come cuore della famiglia. In effetti quando Gesù è andato al capitolo quarto, che vi consiglio di leggere, uno cerca, per esempio, a volte c'è chi cerca appunto una dimensione di conversione per la Quaresima, cosa faccio, cosa cerco. Capitolo quarto, soprattutto nella prima parte, quando riprende la lettera ai Corinzi, l'inno alla carità, e lo applica alla vita di famiglia, è molto bello, molto forte, molto esigente. Ci chiede di essere pazienti, di non essere invidiosi, di sopportare tutto, no? Di credere tutto, tutto crede, tutto sopporta. In particolare vi suggerisco, non ce l'ho qui sotto mano, quindi vi lascio la vostra lettura, il punto 113, no? Perché è facile da ricordare, perché è il telefono che si usa quando c'è un problema. E parla proprio dei difetti dell'altro, no? Del coniuge, o potete applicarlo anche ai figli. E dice delle cose molto sagge, dice che il difetto dell'altro non è tutto l'altro, no? Ha anche tante cose buone, insomma, e lo vedrete, poi mi confermerete, penso che vi può aiutare. Marta e Maria, adesso abituate, aiutate da Gesù a capirsi l'una con l'altra e a volersi bene anche nella loro diversità, pregano insieme, cioè dicono a Gesù: Maestro, colui che tu ami è malato. Cioè, sono tutte e due le sorelle che mandano questo messaggio a Gesù insieme. Non sono più su due fronti diversi, non sono più divise, non sono più in contrasto. Il dialogo con Gesù le ha unite. E beh, sapete la storia che Gesù evidentemente aspetta ad arrivare, cosa che deve essere stata anche molto costosa per lui, perché veramente, dice Giovanni, Gesù amava Lazzaro, Marta e Maria. Quindi amava Lazzaro e non voleva che morisse, amava Marta e Maria e capiva il loro dolore, però ecco, per questa cosa più grande ha aspettato. A volte noi nel pregare non abbiamo, cioè ci sconcerta o il silenzio di Gesù o la lentezza nell'intervenire. In questo episodio ci fa capire che quando accade questo c'è sempre un motivo, anche se a volte per noi è misterioso. E le sorelle mantengono quest'unità anche quando lui arriva. Gli dicono la stessa cosa l'una e l'altra. Io Mi immagino che si siano messe d'accordo, no? Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta a casa. E Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. E qui comincia poi un dialogo con Marta che porta Marta a fare un grande atto di fede. E sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Vedete che è esattamente il contrario di quello che era successo prima. Gli dava fastidio che Maria parlasse con Gesù, invece adesso la va a cercare e le dice che Gesù la chiama, no? Udito questo, ella si alzò subito e andò da Gesù. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Come vedete, la personalità delle sorelle rimane la stessa anche nel dialogo con Gesù. Ciascuno di noi rimane colui che è, no? Così come ci ha fatti il Signore, come ci ha creati, no? Non cambiamo come personalità, ma cresciamo nell'amore. E allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Si getta ai suoi piedi, no? Come stava ai suoi piedi in tempi migliori, no? Gesù allora, quando la vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. A me piace pensare che Maria si erano messe d'accordo le due sorelle per dire la stessa cosa. Di fatto dicono la stessa cosa, poi Maria non riesce a concludere la frase perché si mette a piangere, no? E mi piace vedere come Gesù, di fronte alle due sorelle diverse, diciamo così, reagisce in modo diverso, pur dicendo loro la stessa cosa, facendo loro la stessa preghiera. E noi possiamo dire: Marta e Maria dicono la stessa Ave Maria, lo stesso Padre Nostro, no? Dicono. Però Gesù reagisce con ciascuno di loro in modo diverso. Con Marta entra in dialogo, Marta poi è la signora della casa, sta in piedi di fronte a lui, e Maria invece si getta ai suoi piedi e si mette a piangere. E Gesù che cosa dice a Maria? Nulla, semplicemente piange con lei, no? Cioè, la reazione di Gesù è diversa con Marta e diversa con Maria, pur di fronte alla stessa frase, possiamo dire anche allo stesso dolore. Noi possiamo pensare, questo ci può aiutare a pensare che Gesù, anche quando noi preghiamo in modo collettivo nella Chiesa, quando noi diciamo il noi della Chiesa, no? Il noi, noi crediamo, noi, ecco, Padre nostro, però il Signore anche a ciascuno di noi dà un dono personale, un dono particolare, e dà una risposta personale. Possiamo anche dire: reagisce con la sua umanità, con i suoi sentimenti così forti, in modo diverso a seconda di quello che noi proviamo, di quello che noi siamo, di quello di cui noi abbiamo bisogno. Questo ci può confortare molto, ci può incoraggiare ad avere un rapporto personale con Gesù, confidargli tutte le nostre intenzioni, tutte le nostre gioie, tutte le nostre pene, e imparando dalle sorelle che anche quel dolore che accade a volte inconsolabile nella nostra vita, però ha un significato più grande. Ovviamente il Signore non sempre farà queste cose così grandi come ridare la vita a un morto di 4 giorni, ma però in quel caso lo fa per dirci quello che farebbe sempre con noi se potesse, no? E anche per incoraggiarci noi stessi a, con le persone che soffrono, a fare come ha fatto lui, a piangere con loro. Poi ci sarebbe anche il terzo punto, ma lo lascio a voi, visto che ormai la meditazione la vogliamo concludere, che è come la terza scena di Betania, quando in quella festa, in quella cena, Marta serve, Lazzaro è dei commensali e Maria, d'accordo con Marta, a un certo punto interviene e profuma Gesù col profumo di nardo preziosissimo, rovesciandolo sui suoi piedi, secondo Giovanni, sulla sua testa, secondo Marco. Secondo me sono vere tutte e due le cose, e quindi anche su quella sua tunica inconsutile, no? Quindi quel profumo così forte, così grande, così potente, così, che poi riempie tutta la casa, che è simbolo dell'amore di Marta e di Maria che si diffonde, l'amore di Marta e di Maria per Gesù, la loro gratitudine che si diffonde intorno a loro, quel profumo, quindi quell'amore di Marta, quell'amore di Maria e di Lazzaro accompagna Gesù nei giorni della passione, no? Impregna i suoi capelli, il suo vestito, è presente secondo me anche sulla sua croce, e chiediamo a Gesù di accompagnarlo così anche noi, come questo profumo d'amore che non lo vuole abbandonare mai.